Ora vi presentiamo Luisa, uno sguardo oltre Alpe, sceneggiato teatrale tratto dall'ultimo romanzo di Roberto Saviano, Dimagrire con la camorra. La vicenda narra la storia di due famiglie rivali che vivono nel pericoloso confine che c'è tra l'America Latina e l'America Frosinone. I Winfield sono dei nobili decaduti per aver giocato in borsa senza la canottiera. I Baltimora sono una famiglia di contadini che coltiva soprattutto illusioni. In questa prima puntata faremo la conoscenza di Emidio Winfield, burbero e severo padre, il cuore indurito dai troppi dolori che la vita gli ha riservato, spesso attaccato al denaro e a volte attaccato da dei polli. Lady Luisa Diridiridana Winfield, figlia ed erede unica della famiglia Winfield, molto attezzosa e abituata alla vita mondana, molto religiosa, non vuole fare sesso prima del matrimonio, nemmeno dopo, solamente durante. Woody Boogie Baltimora, figlio e ultimo erede della famiglia Baltimora. Il suo sogno nella vita è fare l'agente immobiliare segreto, amante delle cose semplici come lo scioglilingua, dietro a quel palazzo c'è un vigile urbano, dategli un aiuto, dategli una mano. Questa e altre amenità in questa prima puntata di Luisa, uno sguardo oltre Alpe. Ambientazione. Siamo in un paesino poco più a nord di Trieste. Qui, per esplicito volere di Raffaella Carrà, fare l'amore non è molto bello. Lady Luisa si strugge, brama il ritorno del suo amato Woody Boogie Baltimora, quando alla fine giunge una lettera che la rallegra. Ma il sorriso ha breve durata, perché tosto irrompe il suo perfido genitore. Che cosa stai leggendo? Non capireste mai, padre. Ho già capito. Ho capito tutto. È una missiva del figlio di quei miseri Baltimora, quei mentecatti. Non parlare così del mio amato Woody. Amato? Non ti davo mai a quei miserabili. Tu sei la cosa più preziosa che ho da quando tua madre è stata investita da quel calesse. Fino all'ultimo credeva che fosse amore, invece... Ora, leggi! No, padre, non potete capire, non capirete! Leggi! È il tuo vecchio e stanco padre che te lo chiede! Atoi! Atoi, odo! Asahe, ali! Ati, ahoi! Ahoi, hai, tu! Hai capito? In vero no! Io e Woody ci sposeremo! Giammai! Ma io lo amo! Possibile che non ricordi cosa vuol dire l'amore? Ah, l'amore! È vero, io non so più che cos'è l'amore da quando la tua povera madre è stata morsa da quel cobra. Fino all'ultimo pensava che fosse un pensiero frequente, che diventa indecente quando vedo te, quando vedo te, quando vedo te. Non provare a rispondere a quel contadinotto. Tu sei promessa sposa al tuo perfido cugino. Ora vado a fare il mio solito giro di parole. Lady Luisa precipita nella più turpe tristezza e angoscia. E come tutte le volte che è triste e angosciata, cerca conforto nell'immagine confortevole di Gianni Colenze, un soavo che visse a cavallo tra il 1875 e il 1946. Immaginate quanto, intorno al 1943-44, gli poteva far male il culo. Ma l'amato Woody Boogie Baltimora dov'è, eh? Dov'è, dov'è, ma dov'è, dov'è? Ve lo dico io, è in Francia, oltre Alpe. Dopo aver combattuto la sua quotidiana guerra contro la razionalità, si decide a tornare a casa. Lungo il viaggio di ritorno fa tappa in molti luoghi e paesi tipici, come un villaggio della brughiera francese chiamato Jacques-Jouet. Qui si ferma una notte a dormire, salutare, autostop, starnuto, camminare, nuotare, sciare, spray, macio, clacson, campana, ok, baciare, capelli, saluti, saluti, Superman. Woody continua a viaggiare. Durante il viaggio per tornare a casa, Woody trova vento forte a Caianello, code a Rocco Bilaccio e Sesto San Giovanni, quinto San Pio, quarto Giaro, cielo terzo e piogge sparse. Calmi, calmi, oh, buoni gli altri mari. Secondo, primo e contorno 9,90 euro, escluso bevande, caffè, ammazza caffè, funerale del caffè, indagini sulla misteriosa uccisione del caffè, che vanno avanti per anni, ma si sa, in Italia è così. Siamo sempre il solito paese, 17° al mondo per quanto riguarda la giustizia, 19° per quanto riguarda le classifiche a vanvera, terzo, quarto o settimo per quanto riguarda l'essere approssimativi. Presto Woody finisce il vil denaro e si accontenta a dormire in ripari di fortuna e luoghi occupati, e sempre qui nel centro sociale poco aggiornato Frimandela, che è una grande sbandata. E questo lo sapremo nella prossima puntata di Luisa, uno sguardo oltre Alpe.